Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me. Ci sono? Posso andare? Buono, buonasera a tutte e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat. Stiamo trasmettendo in diretta da Mondeggi, fattoria senza padroni. Sapete naturalmente di cosa si tratta. Si tratta di un terreno di proprietà della città metropolitana che è stato occupato oramai diversi anni fa da un gruppo di attivisti, e poi è nato un progetto che ha coinvolto veramente diverse centinaia di cittadini dell'area fiorentina, in particolare da Bagno a Ripoli. Siamo qua perché proprio a partire da oggi, anche domani e anche domenica, è iniziato l'incontro nazionale di Genuino Clandestino. Abbiamo visto quest'oggi l'inizio, questa mattina vi è stata un'accoglienza con un pranzo comunitario e l'assemblea è partita circa alle 4:30, ma noi, siccome siamo un po' ritardatari, siamo in diretta solamente adesso. È colpa del lago, è colpa del tempo, è colpa del traffico. Noi siamo cittadini, in verità, cioè, poi ci avventuriamo in campagna, ma è un animale un po' cittadino il wombat. Sì, in realtà almeno per ora abbiamo avuto un sacco di difficoltà a venire fuori dalla città, è stato molto complesso. Quindi siamo riusciti finalmente a montare tutto, speriamo di darvi un segnale di buona qualità, speriamo che sia comprensibile. Si sta svolgendo appunto adesso l'assemblea, che è l'incontro nazionale che si svolge ogni 6 mesi. Quest'anno ha deciso di toccare Mondeggi proprio per la sua storia recente e per l'importanza della realtà, si può dire, un po' in tutta Italia. Ma andremo più nello specifico a farci raccontare che cosa sta succedendo in questa assemblea. Abbiamo qua accanto a noi due rappresentanti della realtà di Mondeggi che sicuramente sapranno meglio di me dirvi che cosa ci si auspica che venga fuori da questa assemblea. Bene, mi sentite? Buonasera. Yes. Buonasera, grazie ancora a Radio Wombat della presenza qua. Buonasera da Mondeggi. Tardiva presenza. Buonasera. Un po' tardiva. Allora, esatto. Siamo qua. Siamo partiti un po' in ritardo, ma d'altronde è anche molto difficile che un'assemblea così lunga, perché voi lo sappiamo, noi abbiamo esperienza, fate veramente delle maratone di assemblee, quindi anche per i nostri ascoltatori noi abbiamo impostato un po' un programma che, diciamo, darà poi un sunto il più preciso possibile di quello che sta avvenendo. Intanto speriamo di essere precisi, esatto. Intanto raccontateci com'è che siamo arrivati alla data di oggi e com'è che siamo arrivati anche al tema che è stato lanciato, alla domanda che è stata lanciata a tutte le realtà che aderiscono. Ricordiamo che aderiscono a questo incontro in realtà un po' da tutta Italia. Possiamo citare compagni, compagne, contadini e contadine, oltre che da Mondeggi e dal Nodo Fiorentino, da Milano, da Torino, dalle Marche, dal Lazio, Campi Aperti da Bologna, da Padova, dalla Sardegna, addirittura da Oltre Alpe, questo solo per citarne alcune, poi andremo a conoscerli più nello specifico. Sono venuti qua tutti più o meno preparati su un domandone, giusto? Su un domandone, esattamente. Allora, ringraziandovi ancora dell'invito, come anticipavi tu, Genuino Clandestino si dà appuntamenti semestrali e durante l'ultimo appuntamento, che è stato a Fabriano nell'ottobre scorso, da Mondeggi e dal Nodo Fiorentino, che ripetiamo si chiama Collettivo di Resistenza Contadina Jérôme La Ronza, e dopo avremo spero opportunità di parlarne sul perché di questo nome in particolare, sostanzialmente abbiamo come fiutato un periodo delicato per Mondeggi in particolare, o comunque per Genuino Clandestino più in generale, e abbiamo richiesto in assemblea, durante un'assemblea plenaria così analoga a quella che sta avvenendo ora qui davanti a noi, abbiamo chiesto la possibilità di organizzare noi, di accollarci noi nel bene e nel male cioè l'organizzazione della Tre Giorni, ed eccoci qua arrivati all'inizio, quindi al primo appuntamento interno e soprattutto al famigerato domandone. Il domandone è più complesso da spiegarsi perché abbiamo tempo, è un percorso, quindi... è un percorso di costruzione, è un movimento, quindi un gruppo di persone che diversissime per davvero età, provenienza, microcultura di partenza, diversissime perché magari hanno anche culture politiche che non per forza storicamente sono portate al dialogo fra loro e all'apertura o meno verso un elemento istituzionale in senso proprio lato, quindi il rapporto con le regole. Ricordiamo che nel manifesto di Genuino Clandestino c'è scritto palesemente che si cammina con o senza la legge, noi quindi rivendichiamo questo passaggio, e un movimento ormai diventato ampio deve fermarsi, deve interrogarsi, deve fare quello che potrebbe essere paragonato a una piccola autoanalisi e riuscire a trovare i propri punti di forza e soprattutto i propri punti di debolezza, mettere incrociare proprio le esperienze in maniera che sia un ritratto quanto più descrittivo possibile, e attraverso questo ritratto ridarsi forza, innescare appunto un volano che parte, ritorna, parte, ritorna, e dà respiro perché venendo qua, incontrandosi tutte quante, si parla di oggi almeno un paio di centinaia di persone. Vai, come che spettacolo, esatto, che come bello della diretta. Questa campagna, ci sono i cani. Il bello della diretta. Diretta in campagna, che spettacolo. Non sempre si è d'accordo. Insomma. Ecco, vedi. Basta, ecco. Infatti, sì, comunque. Delitto e castigo. Delitto e castigo. va bene, torniamo sul pezzo. Stavamo dicendo domandone. Che domandone e momento culminante di un movimento può essere quello di interrogarsi sui punti di forza e quelli di debolezza, e il domandone non è nient'altro che questo. Come ogni articolazione locale di un movimento che, ripetiamo, si dà respiro nazionale, ecco, va a sviluppare i propri punti deboli, i propri punti di forza, e va, si spera, alla fine di un'assemblea di questo genere, a decidere in quale direzione convogliare le energie nei prossimi mesi, che possono essere 6, può essere anche un percorso più lungo e quant'altro. Vai, ce l'ho fatta. Bravissimo, bene. Bravissimo. Bene, allora, quindi appunto, essendo l'assemblea da mandare, da mandare in onda, perché le persone sono estremamente tante, quindi noi abbiamo optato per andarvele a prendere piano piano. Con questo noi vi mandiamo il primo pezzo della giornata, nel frattempo andiamo a prendere per le orecchie qualche partecipante. Viva! Come close. Take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. Eccoci tornati in diretta su Radio Wombat. Ci state ascoltando probabilmente dallo streaming, perché la nostra frequenza FM è un po' ballerina, o al meglio, non si sente un cazzo. Sì, ma anche abbiamo lo streaming è andato un po' ballerino. Anche lo streaming è un po' ballerino, ma... Grandi problemi tecnici. Siamo in campagna, perché in città invece no. In realtà è colpa nostra, infatti, colpa nostra. Non è colpa è il Wombat che ancora è un po' arrugginito. Abbiamo qua accanto a noi... che avete già sentito i microfoni di Radio Wombat. Intanto lo salutiamo. si può staccare questo tranquillamente, si può tenere anche in mano. Buonasera a tutti. Buonasera, a tutti. Buonasera Pippo. Allora, prima di fare due domande a te, volevo... Ok, no, è scappato. Benissimo. Allora, intanto buonasera, bentornato ai microfoni di Radio Wombat. È un piacere, sempre qua a Mondeggi, ci vediamo. Eh sì, ci vengo spesso. Allora, la volta scorsa, se non mi sbaglio, eri per in quanto attivista di Recommon. Sì, sì. E invece quest'oggi? Ma io faccio parte da anni di una rete di Genuino Clandestino che si chiama Terra Terra, e che è una delle, diciamo, anche cofondatrici del movimento Genuino Clandestino. E perché faccio parte di una realtà sociale romana che si chiama La Città dell'Utopia, dove Terra Terra fa mercati a 10 anni. Quindi insieme a loro costruiamo una parte del percorso. Bene. Allora, abbiamo detto, quello che volevo chiederti io è come Terra Terra ha risposto al domandone. Diciamo, tutte le realtà sono arrivate qua con un qualcosa di preparato, però forse ancora prima di farlo spiegare a te, farei spiegare come siamo arrivati al domandone, perché non è assolutamente banale. Prego, abbiamo qua un mondeggino che si occuperà di questo. Ciao. Prenderà oneri e onori di questo. Sostanzialmente ci si chiede se c'è il desiderio di fare il passaggio dal essere delle reti territoriali che si auto-organizzano e si incontrano fra di loro semestralmente, e passare da questo ad avere delle attività pratiche, un'organizzazione maggiore durante l'anno per fare diverse cose. Queste diverse cose sono avere una comunicazione verso l'esterno per chi non conosce il movimento, e dare una sua impressione politica del movimento stesso rispetto ai vari accadimenti. Chiedersi se una parte della domanda è chiedersi se abbiamo intenzione di andare oltre a quello che sono le vertenze strette a livello contadino del movimento, quale è il sostegno fattivo da parte delle altre reti quando a una è necessario del bisogno, è necessario del... Cioè dici gli altri tutti i nodi come si comportano, come potrebbero comportarsi nel momento in cui uno dei nodi sì. Fosse in difficoltà. E, arrivare attuare maggiormente delle difese pronte e delle comunicazioni pronte ogni volta che sia richiesto. Quindi la domanda si declina poi in varie proposte che vengono fatte durante questa assemblea a livello pratico, sui livelli di comunicazione, la formazione un interrogativo che è stato posto una parte di lavoro è stata fatta negli ultimi 6 mesi attraverso il gruppo di formazione che domani domani verrà detto, che è la presentazione di necessità e di formazione da parte delle reti, talenti e esperienze che possono essere messe in campo per fare formazione ad altri, e quella è una parte del lavoro. Questa era già stata decisa 6 mesi fa, si vuole arrivare a capire in questa assemblea quali altre cose pratiche siano necessarie, e se si sente l'esigenza di esprimere di più a livello comunicativo rispetto a quanto viene fatto attualmente dal movimento in tanti altri ambiti della vita. Ok, quindi praticamente durante l'assemblea, nella prima parte dell'assemblea, ogni realtà ha portato qua, diciamo, il proprio punto di vista su tutte queste questioni. Bene, Pippo. Sì. Allora, raccontaci un po', perché il tuo movimento Terra Terra è attivo in Lazio prevalentemente, ma non solo. Sì, in realtà nel Lazio sono attive tre associazioni: Terra Terra, Cicampo e Zolle Nomadi. Alcuni produttori di Terra Terra sono anche di Cicampo e Zolle Nomadi, perché siamo divisi per area territoriale. Anche l'area di Orvieto, che apparentemente è Umbria, in realtà maggiormente afferisce a Roma, a Terra Terra, e anche loro hanno una loro forma di mercato e una loro forma di garanzia partecipata. Quindi è una realtà molto variegata. E come siete arrivati a questa assemblea voi? Cosa, infatti, quali la, punti? La questione di spiegare biecamente il risultato del discorso può essere fraintesa, nel senso che dal discorso è uscito che noi in questo momento non ci sentiamo di riuscire a contribuire con costanza a livello nazionale a passi in avanti del movimento che ci si può dare in questo incontro, perché appunto nella quotidianità, durante il mese, Terra Terra, oltre all'organizzazione dei 5 mercati che si fanno, ha anche un gruppo, un collettivo stabile all'interno, e si occupa di organizzare la cucina collettiva, ha le garanzie partecipate che si fanno ogni prima domenica del mese per area territoriale, e ha un percorso di relazione alla città con altri movimenti, eccetera eccetera. Quindi tutto questo, lavorare su un territorio in pochi, in una trentina di produttori e consumatori, lavorare su un territorio vasto come può essere Roma, venendo dai quattro lati della regione, e comunque lascia poca lucidità. È un lavorone, sicuramente. E quindi non si è detto non ci interessa niente, si è detto in questo momento dobbiamo rafforzare altre cose, perché è in atto un cambio generazionale, e quindi tutte le cose del caso. Cioè, se delle persone che hanno sempre parlato a un certo punto fanno un passo indietro e ci sono altre 15 persone che però ancora non hanno i parametri, per certo. È un percorso, ecco. Assolutamente. Va bene, e vi descriverei un attimo la garanzia partecipata. Prego. Nello specifico. Assolutamente. Visto che l'ha citata, ed è una è un percorso che viene fatto all'interno delle reti, quindi localmente, per sapere come le persone che portano delle produzioni le facciano, quali siano i loro livelli etici, livelli di di produzione, la visita del posto, fatto, e conoscersi proprio ultimato a livello relazionale. Certo. Questo richiede molto tempo. Una mia impressione sull'assemblea che stiamo vivendo è il fatto che dove si è riuscita a manifestare di più questo percorso, quindi nelle reti territoriali più anziane, se vogliamo, l'impegno che viene messo in quello prende abbastanza, cioè diverse reti, come credo potrete sentire più avanti, da Terra Terra, da Campi Aperti di Bologna, insomma, hanno questo difficoltà magari a fare ancora di più. Vabbè, reti certo. Più giovani queste cose magari non le stanno ancora approntando tanto da avere una riduzione del tempo. Certo, sì, sì, certo, sì, sì, certo, sì. Ragazzi, le giornate sono di 24 ore. Il lavoro nei campi prende tanto tempo. Una particolarità della garanzia partecipata è che comunque bisogna organizzare una giornata da un contadino che noi conosciamo preventivamente a una nostra assemblea, poi l'andiamo a trovare, ma ci deve essere un produttore che produce le stesse cose, altri produttori dell'associazione che verificano le altre caratteristiche, e poi tutto un bacino di consumatori che sono un po' di Terra Terra e un po' già del produttore. Quindi in realtà è una giornata assembleare in cui si fa relazione, si fa crescita politica, che però è impegnativa da organizzare. Certo, tutto questo per nel senso è l'alternativa ai marchi, giusto? Quando ci sono, come si chiamano le etichette? alle certificazioni, esattamente. Quindi la vostra, voi attraverso questo processo, che è un processo sicuramente più impegnativo da fare, da portare avanti, perché davvero si tratta di andare a conoscere tutti gli elementi che poi dal consumatore agli stessi Se vogliamo, il nostro è anche il nostro strumento di tutela, perché comunque noi rischiamo, partecipando a Genuino Clandestino, andando contro la legge, però non vogliamo rischiare di andare contro la salute, quindi è un percorso che dobbiamo fare sia per autotutela sia per crescita delle relazioni. Va bene. Pippo, hai qualcosa da raccontarci? Oltre più di questo. Più di questo? Oltre a questo? No, niente, che immagino che come tutte le tre giorni molto saggiamente ognuno porti dei frutti nelle sue reti e li faccia maturare senza vari giramenti di testa dall'emozione, ci incontriamo tutti insieme e speriamo che in qualunque modo sia e in qualunque modo si decida si riesca comunque a supportare Mondeggi in questi giorni, e dalle nostre reti, da tutte le reti che erano presenti, comunque questo messaggio è passato al di là delle fatiche, al di là di ogni cosa. Va bene, allora magari ci risentiamo nell'arco di questi tre giorni, vedrai che ci sarà occasione. Ok, a dopo, ciao. Buona serata. Andiamo di una canzoncina, nel frattempo abbiamo qualcuno che già sta aspettando di sedersi. Perfetto, ai grande organizzazione. Quindi. Grande organizzazione, sì. E pochi mezzi tecnici. Un po' così. Via, Wombat Wombat. e andiamo avanti con un altro pezzo, visto che ancora il prossimo ospite non c'è. E via. Yes, we missed ya. Let's get it together. Make a nation. You can bet on it. Don't sleep in it. Cause the troops go deep in it. Turn it up. Turn me loose. Power to the people. Siamo tornati sulle frequenze di Radio Wombat. Abbiamo qua accanto a noi un nuovo ospite. Anche lui sta partecipando, anche lui con la sua rete sta partecipando all'assemblea. Viene da Macerata, Claudio, benvenuto ai microfoni di Radio Wombat. E, Macerata e dintorni. Sì, esattamente. Rete che si chiama? Seminterrati. Seminterrati, benissimo. Allora, noi in questo frangente stiamo cercando un po' di dare voce e diffondere la voce di tutte le realtà presenti qua, naturalmente con un occhio all'assemblea che si sta svolgendo, e quindi stiamo rifacendo il domandone che tutti voi vi siete preparati venendo qua in Toscana. Quindi la domanda principale è questa, poi sicuramente avremo modo anche di andare in altri campi, perché Macerata è stata veramente sulle prime pagine, purtroppo devo dire, è stata sulle prime pagine di tutti i giornali per dei fatti agghiaccianti che abbiamo avuto modo di commentare e di seguire in modo approfondito su Radio Wombat. Però partiamo dal domandone. Sì, guarda, allora, come rete marchigiana il nostro intervento in un'assemblea del genere è proprio quella di portare il supporto di una rete che, chiaramente, come dicevi tu, sta vivendo in un territorio difficile, un territorio in cui molto di quello che stiamo vivendo va al di là delle lotte contadine, ma entra in una lotta di decenza e lotta alla deumanizzazione che sta avvenendo nei confronti dei migranti, che poi di fatto sono anche le persone che troviamo nei territori contadini in tutti i giorni. Però fondamentalmente il nostro contributo oggi era proprio quello di dare un supporto a una realtà come Mondeggi, che è una realtà che comunque, al di là delle specifiche pratiche locali che noi portiamo avanti, è un modello secondo noi di quello che significa l'auto-organizzazione oggi in Italia. Quello significa l'auto-organizzazione non solamente come un territorio di lavoro interno ai movimenti, ma anche di collaborazione e dibattito con una realtà molto più ampia. E quello che vediamo qui è questa modalità, una modalità che noi supportiamo e a cui personalmente, visto anche quello che abbiamo vissuto negli ultimi periodi, ci sentiamo di contribuire sotto la forma più comunicativa, quindi a dibattiti, quindi produzione culturale, artistica e intellettuale legata a questo, quindi è un po' il contributo che portiamo a questa assemblea. Bene, da Seminterrato fate dei mercati? Allora, noi abbiamo una serie di mercati sul territorio che appunto sono portati avanti, devo dire, con un po' di difficoltà in questo momento, da una serie di produttori locali. E quindi facciamo questi mercati in vari territori da noi, a Macerata, a Fabriano e in vari altri posti. E questi mercati noi li vediamo, come penso vanno detto già precedentemente, non solamente come una forma di vendita dei nostri prodotti. Certo. Ma come una forma di incontro con una realtà più estesa, perché quello che pensiamo è che il cibo molto spesso è quello che pensiamo come bene cuspide, cioè quello che noi viviamo non solamente come quello che mettiamo dentro la nostra bocca, ma anche come il prodotto di una forma di lavoro, una forma di collaborazione, di forme di organizzazione sia politica che economica che legale, che entra un po' in conversazione l'uno con l'altro dentro i mercati che noi facciamo. Quindi fondamentalmente il mercato è più che altro uno spazio di incontro, no? Assolutamente. Sì, sì, ci hanno spiegato molto bene. Avevamo in una trasmissione giusto lunedì due rappresentanti di Genio, della rete fiorentina di Genio Clandestino, e appunto hanno approfondito molto questo tema, quindi proprio l'incontro e la creazione di rapporti diretti con coloro che sono consumatori, ma poi in verità non sono solo consumatori, perché sono una parte importante del progetto. Comunque la cosa che volevo chiederti è, sentite anche voi, immagino, l'esigenza di un Genio Clandestino con degli obiettivi ben precisi e con una linea, ecco, comune per tutte le realtà presenti sul territorio italiano? Sì, senza dubbio, però allo stesso tempo una delle forze... Allora, noi purtroppo nel territorio nostro nell'ultimo anno abbiamo vissuto una serie di difficoltà. E una delle prime, prima ancora di quello a cui riferivi tu, dell'attacco fascista dei Traini, è stato il terremoto. E di fronte al terremoto abbiamo vissuto una presenza fortissima di Genio Clandestino come forma di supporto al mutuo soccorso. Cosa significa il mutuo soccorso in un territorio come il nostro? Significa che di fronte alla volontà politica di distruzione del tessuto sociale e economico delle montagne, che sono state vittime di questo terremoto, Genuino Clandestino ha risposto con un sistema di supporto e di mutuo aiuto nazionale. Pensiamo in particolare a supporto nella forma monetaria, nella forma di lavoro, ma nella forma anche di cose pratiche e materiali come pannelli coibentati, che sono stati mandati da realtà diversissime, lontanissime, come la Notav, in supporto a coltivatori e persone con animali locali. Allevatori. Quindi noi abbiamo vissuto molto fortemente questo supporto Genio Clandestino. Quindi quello che crediamo è che sì, c'è bisogno e ci sono bisogno di obiettivi specifici, ma anche che questi obiettivi si fanno poi nelle pratiche di lotta quotidiana. Ecco, questo che dicevi te è uno dei punti centrali di questa assemblea, il mutuo aiuto e la solidarietà. Quindi ok, mi torna quello che dici, mi torna che anche voi abbiate tutta questa esigenza, anche perché ora abbiamo citato l'ultimo terremoto, ma è l'ultimo, ecco, esatto, di una lunga serie, quindi... No, e tornando sul tema del mutuo aiuto, secondo me questo è uno degli elementi importanti anche per chi ci ascolta, è capire la differenza tra il mutuo aiuto e l'assistenzialismo. Cioè in molti contesti differenza, esatto, tra esatto, l'altro. E il mutuo aiuto per noi non è semplicemente una forma di assistenza alle difficoltà, ma è una formazione di coscienza politica dentro le pratiche quotidiane. Che significa poi nella pratica? Che il mutualismo, il mutuo aiuto ha una storia nel nostro paese, ha una storia che è molto legata alla lotta operaia nel XIX secolo e che noi stiamo provando a ricostruire. Che significa che l'allevatore di cui tu parlavi, che tiene pecore nella montagna marchigiana, non è semplicemente un allevatore, ma una persona che sta vivendo l'attacco fortissimo di quello che significa il capitalismo dopo uno shock come il terremoto. E noi stiamo tentando di fare questo lavoro di ricostruzione di questo legame, sì, politico-economico. I paesi si svuotano e rimangono devastati. E... Esattamente, e allo stesso tempo secondo noi quello che stiamo vivendo sul nostro territorio non è solamente uno svuotamento, ma è un riempimento da parte di forme di utilizzo del territorio solo come bene turistico. Assolutamente, guarda, giusto qualche giorno fa ho avuto modo di vedere, non si tratta proprio del territorio marchigiano, ma era in Umbria, a Castelluccio di Norcia, esatto, dove hanno intenzione di costruire, proprio per ridare vita al paese devastato, hanno intenzione di costruire un mega iper super, esatto, centro commerciale. E vai proprio all'americano. Questo è quello che tu chiamavi assistenzialismo, mentre il mutuo aiuto è ben altro e richiede, insomma, energie ben diverse. Bene, Claudio, grazie mille. Siamo qua noi e magari avremo modo, grazie, di averti ancora ai nostri alla microfoni. Prossima. Grazie mille. Ciao. Allora, Claudio Drago, che si fa? Che ne pensi? Bello, bello. Bello? Ma poi siamo arrivati e subito tutto molto bom bom bom bom. Sì, sì, poi tutti gentilissimi, carinissimi. Presentiamo tutti e poi facciamo, fantastico, mandiamo una bella canzone ora. Va bene, vai, spezziamo un attimo in attesa del prossimo ospite, che è qua accanto a noi, ci sta guardando con una birra in mano. Bravo. Ma noi lo facciamo aspettare ancora 3 minuti. Vabbè, si beve la birra, è buono. Via. Wombat. We'll be right back. darsi che non sia solamente fantasia. Può darsi che non sarà poi così facile riaddormentarsi. Questa notte le ci ha provate tutte senza esito, ma questa notte ogni mezzo è lecito, perché stanotte il buio saprà parlare ed userà argomentazioni che non puoi affrontare. Proverà ad urlare anche se è nascosto, riuscirà a tenerti sveglio a qualunque costo. Ormai sei esausto, sei in preda alla tensione, ti stai chiedendo se stanotte avrà mai fine. Solamente un'altra notte ad occhi aperti, dimmi che daresti adesso pur di addormentarti. Questa notte il buio sa parlare, e mai come stanotte il tempo fa rallentatore. Solamente un'altra notte ad occhi aperti, dimmi che daresti adesso pur di addormentarti. Questa notte il buio parla piano, e mai come stanotte il giorno appare più lontano. Il buio parla sapendo che sei in ascolto, il buio ha un volto, stavolta il buio ti ha scelto. Cerchi di evitarlo ma farlo sarà impossibile, sarà più svelto e sfrutterà ogni punto debole qua. Zero regole ed è inutile fuggire, il tuo obiettivo è sopravvivere su e farti impazzire. Saprà colpire mentre guardi nel passato, ricordi che era meglio riuscire ad aver scordato. Col risultato che niente è più uguale se un'immagine si sovrappone in modo casuale. Perché quando il male è il solo modo per descriverlo, tocca viverlo in tempo reale e poi scriverlo. Oppure inciderlo ma in modo permanente, dividerlo tra chi lo ascolta ma non lo sente. Perché stavolta niente come te lo aspetti, nel buio tu cammini con me come gli specchi. Solamente un'altra notte ad occhi aperti, dimmi che daresti adesso pur di addormentarti. Questa notte il buio sa parlare, e mai come stanotte il tempo fa rallentatore. Solamente un'altra notte ad occhi aperti, dimmi che daresti adesso pur di addormentarti. Questa notte il buio parla piano, e mai come stanotte il giorno appare più lontano. Oltre questa notte non c'è niente oltre i contorni, se oltre stanotte sarei tu che li trasformi. Beh, tienilo a mente, da stanotte non dormi qua. Sai quando parti ma non sai quando ritorni. Sono altri giorni che non posso più scordare. Sono le notti a impormi il suono da usare. Toccherà aspettare perché non ti puoi nascondere. Il buio sa parlare con te, prova a rispondere. Tornati, il nostro ospite, il nostro nuovo ospite è Carlo, arriva da Bologna, dall'Emilia Romagna e dalla rete di Campi Aperti. Ciao, ciao. E, Campi Aperti, appunto se ne parlava, io ho visto a Bologna che tiene mercati quasi tutti i giorni, diciamo tutti i giorni feriali della settimana, giusto? Sì, abbiamo a questo punto abbiamo sette mercati settimanali. Sette mercati addirittura. Sette mercati settimanali, uno sospeso a causa di uno sgombero che ancora deve essere lo sgombero di Labà, che di cui molti avranno sentito parlare, certo. E che dovrebbe riprendere tra poco. Noi siamo una realtà insomma abbastanza matura, sono 15 anni che lavoriamo a Bologna e abbiamo un centinaio di agricoltori e diverse centinaia di cittadini che ogni settimana vengono a fare la spesa ai nostri mercati. Noi siamo una realtà cittadina, come dire, conosciuta nell'ambito di Bologna in maniera abbastanza diffusa. Sì, ho avuto il piacere fra l'altro di passare da alcuni dei vostri mercati, tutti prodotti veramente ottimi. E sì, devo dire molto partecipate sempre, ho incontrato tantissime persone. I posti dove si svolgono sono notevoli, ecco, è diventato un wombat anche Carlo. perché tocca centri sociali quali l'XM24, anch'esso che sta affrontando insomma un pericolo di sgombero che sembrava imminente fino a qualche mese fa, poi è stato un po' un falso allarme, speriamo. No, il pericolo purtroppo non è passato, probabilmente torneranno alla carica tra breve, vedremo collettivamente tra le realtà bolognese come affrontare la situazione. Va bene, allora tornando a noi, siamo a Mondeggi per l'assemblea di Genuino Clandestino, della quale fate parte, della quale fate parte. Noi stiamo un po' chiedendo ai partecipanti, a chi partecipa, alle realtà che partecipano, come sono arrivate qua, quindi come hanno dato risposta al quesito, che è il quesito centrale di questa assemblea, quindi come indirizzare il movimento, quali sono i punti da migliorare secondo ogni singola realtà. Sì, guarda, allora dentro Campi Aperti la riflessione è stata, come dire, sotterranea e non tanto collettiva, ma è stato uno scambio di idee rispetto a questa questione, che è una questione centrale, secondo me è una questione storica, il fatto di riuscire a raccogliere forze, raccogliere adesioni per superare la frammentazione e l'irrilevanza che il movimento antagonista in questa fase storica ha a livello almeno italiano. Ecco. Quindi il problema è assolutamente centrato, ma la risposta non è semplice, perché appunto è una risposta di grande portata. Ecco, quello che noi abbiamo pensato è che comunque in questa fase sia assolutamente prioritario creare degli intrecci, dei legami, delle relazioni a livello locale, cioè che i nodi territoriali di Genuino Clandestino in qualche modo non si sentano autosufficienti e non sviluppino un discorso singolo, che è quello fondamentale, importantissimo, dell'agricoltura contadina, della sovranità alimentare, della difesa dell'agricoltura contadina, dei residui di agricoltura contadina e del grande piano, progetto collettivo che abbiamo, idea, orizzonte lontano della sovranità alimentare. Abbiamo assolutamente bisogno invece di intrecciare i nostri discorsi, le nostre lotte, le nostre questioni con altre lotte, questioni altrettanto importanti. Ne cito soltanto alcune, l'antifascismo in particolare e l'antirazzismo in questo momento storico, la lotta per la casa e per la dignità di vita delle persone che si trovano in difficoltà economiche e soprattutto la lotta il collegamento con i ragionamenti del movimento No Border e quindi della difesa del diritto di ciascuna e ciascuno di poter muoversi liberamente sul pianeta. Quindi è questa un po' la questione fondamentale. Per noi non è tanto importante, come dire, cercare di costruire un sindacato contadino o comunque una forza a livello nazionale. Tra l'altro questo piano, questo ragionamento ci interessa fino a un certo punto, perché comunque ragioniamo al di là ma è quello di riuscire ad accumulare nei luoghi in cui abbiamo effettivamente la possibilità di farlo, accumulare forze e intrecciare relazioni, come dire, solidarietà e complicità con altri che nei territori fanno altre battaglie altrettanto importanti, sì, rispetto alla nostra. E come diciamo, avete portato qualche proposta, come secondo voi si può raggiungere questo tipo di risultato? Sì, come dire, in qualche modo noi cogliamo in questa visione o idea o prospettiva di costruire una forza nazionale sulle questioni come un attimino viziata da alcuni sovrastrutture storiche, nel senso che forse non è questa la cosa principale, ma la questione fondamentale è quella dell'accumulo di forza e quindi la costruzione di relazioni con altri soggetti o altri singoli che nelle città hanno delle idee, delle visioni di prospettiva del mondo analoghe. Cioè, quindi secondo noi la grande questione è adesso, come dire, pensare, iniziare a riflettere e a costruire collettivamente, con gli strumenti che abbiamo, un nuovo movimento rivoluzionario di ampia portata. E quindi questo non può assolutamente trattare soltanto la questione contadina. Per cui noi daremo la priorità a lavorare in questo senso e magari, visto che per noi è stato fondamentale, siamo stati tra i fondatori di Genuino Clandestino, usare Genuino Clandestino come luogo di fertile, perché lo è, di scambio di idee, di pratiche, di confronto periodico tra le reti. Questo non significa che non sia possibile trovare alcuni punti su cui convergere tra i nodi e fare lavori collettivi tra un Genuino Clandestino e l'altro. E forse uno di quelli prioritari che almeno io individuo è proprio quello della comunicazione, dell'elaborazione del pensiero e dell'informazione. Cioè abbiamo bisogno di collegarci in questo senso e di come dire, far funzionare una intelligenza collettiva che in qualche modo esiste e purtroppo, incontrandoci soltanto due volte l'anno, non riesce a lavorare fino in fondo e così efficacemente. Sì, esatto, guarda, non sei il primo, anzi tutte le persone che sono state qui a questo microfono hanno citato il punto della comunicazione, perché è sicuramente è una questione molto importante. Noi come movimento rispetto a questo abbiamo subito una sconfitta, dobbiamo riconoscerlo, cioè quando io ho l'età e ho vissuto Genova e allora sembrava che il movimento antagonista riuscisse a costruire un proprio sistema autonomo di comunicazione, purtroppo a un certo punto questa esperienza è collassata, bisogna ripartire, forse in qualche modo ripartire da zero, ma ripensare anche al sistema in maniera il più orizzontale e plurale possibile, perché questa è l'altra questione, è che siamo tanti ma abbiamo tante teste diverse e dobbiamo assolutamente lavorare alla ricomposizione, che significa prioritariamente individuare i punti di connessione, certo, condivisi tra le varie realtà. Senti, in chiusura diciamo sul tuo intervento, ho visto che quest'anno è stato particolarmente difficile per gli agricoltori di campi aperti, questo l'inverno appena passato, avete avuto un clima molto rigido, un po' come in tutta Europa, ma penso che al di sopra dell'Appennino ci sono state nevicate ben più ingenti e anche vento. Sì, dal punto di vista dei cambiamenti climatici noi stiamo subendo delle perdite assolutamente considerevoli, tanto che alcuni stanno mettendo in discussione proprio le loro prospettive di resistenza nella produzione agricola. Ci siamo messi così, abbiamo bisogno di sostegno, abbiamo bisogno del sostegno di tutti, quindi lavoriamo in questa direzione per continuare a costruire un'alternativa di produzione e di consumo di alimenti. Ecco, appunto, il mutuo aiuto è uno dei temi di questi tre giorni e voi lo state sperimentando, immagino, anche in seguito a questi eventi. Sì, lo stiamo sperimentando, è una pratica che bisognerà in qualche modo estendere, perché comunque i piccoli agricoltori non sono soggetti a aiuto di strutture pubbliche e quindi è proprio attraverso la solidarietà concreta quotidiana che possiamo pensare di riuscire a continuare il nostro lavoro che stiamo portando avanti. Molto bene, Carlo. Grazie mille. Grazie, ciao, a saluto te a tutti. E buon proseguimento. Avete sentito anche i compagni bolognesi e emiliani, ma non finisce qua, perché abbiamo tantissimi ospiti, abbiamo tantissime voci da farvi sentire. Se potessi vedere, vi faremo vedere questo cielo gente. Mondeggino che si sta per tingere di tantissimi colori. Devo dire che una location così bella l'abbiamo avuta solamente, secondo me, mai. Secondo tipo. Me la volta scorsa quando eravamo a Mondeggi. Però ma era inverno, eravamo dentro, era freddo. Dentro, sì. Non è bella come sì, oggi. Questa volta. Secondo me domani mattina sarà. Domani mattina. Mm-hmm. Sì, cari, perché anche domattina noi saremo qua. In diretta. Da Mondeggi. Stanotte no. Comunque stanotte. Andiamo di canzone. Una canzoncina. 5 minuti di pausa e sì, poi si torna. Pochi minuti di pausa e torniamo con una nuova intervista. What? quello che sei, quello che è stato, sei un passato che non tornerà, tutto quello che desideravo avere tempo fa, sei quello che è stato, sei un passato che non tornerà. Per le indecisioni prenderò la strada, accettare di cadere ancora, ancora. Però tu sei di essere libero, di essere niente più, niente più di un numero. Sei quello che è stato, sei il mio passato che non tornerà, tutto quello che desideravo avere tempo fa, sei quello che è stato, sei passato che non tornerà, tutto quello che desideravo avere tempo fa, sei quello che è stato, sei il mio passato che non tornerà, tutto quello che desideravo avere tempo fa. Eccoci. Allora, ecco qua Massimo, l'abbiamo qui accanto a noi, una persona anzi due persone che sono arrivate da molto lontano. A detta loro ci cito Calabria Saudita o Calabria Esaurita. Calabria, poi magari Calabria Saurita. In privato chiederemo il perché di questo esaurimento. No, in verità ve lo chiediamo anche alla radio, perché penso che sia un punto importante da chiedervi, visto le difficoltà che andate ad affrontare. Allora, intanto presentatevi, raccontateci da dove venite in particolare, sia come localizzazione fisica, sia anche da che realtà, quindi a quale realtà aderite. Allora, io sono Massimo e faccio parte del connettivo Terra Terra, che lavora con le realtà metropolitane di Roma, e faccio anche parte di una rete locale che si chiama Utopia Sorridente, che è un gas di alcuni compagni a Cosenza. Sono calabrese e sono un figlio di prima mezzadri, poi braccianti, adesso contadini. Coltiviamo da sempre, abbiamo vissuto da sempre di agricoltura, e da circa 10 anni sono entrato a far parte di questo percorso politico che è di Terra Terra, che lavora appunto sulla città metropolitana di Roma, ma non solo, e anche di Genuino Clandestino. Individuo all'interno di questo percorso di oggi, che sta avvenendo qui a Mondeggi, una grande forma di sperimentazione che è di emancipazione, di lotta, che oggi purtroppo non avviene più in Italia e soprattutto in un campo agricolo che diventa sempre più interdipendente da fonti comunitari, da meccanismi liberisti e anche da forme ipocrite di consumi critici, biologici, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, ora si sprecano tutte quelle... Beh sì, devo dire che non solo in campagna, guarda, in città e forse Firenze può essere un esempio veramente lampante di come il neoliberismo portato avanti dalla sinistra o quella che si dichiara sinistra, insomma, ne subiamo delle conseguenze veramente pesantissime tutti i giorni. Comunque, quello che vogliamo sapere noi, quello che vogliamo far passare è la rete Terra Terra, in particolare la rete, la vostra, quindi dalla vostra regione, dal vostro territorio, come si è approcciata ai temi di questa assemblea e come, diciamo, come si pone, come risponde alla domanda, al domandone del futuro del movimento di Genuino Clandestino, se ci vi è una necessità, quali sono i problemi, quali sono invece i punti di forza, dove andare a investire. Appunto, Terra Terra è un connettivo in costante movimento, non statico, che vede al suo interno una pluralità di esperienze molto diverse l'una dall'altra, ma che insieme hanno l'obiettivo comune di portare cibo, ma non solo cibo, idee politiche all'interno dei contesti metropolitani. Credo che diciamo, la nostra visione all'interno di un percorso politico verso il cibo passa necessariamente attraverso l'auto-organizzazione all'interno di spazi sociali metropolitani, attraverso forme orizzontali e assembleari e attraverso metodi e affinità di lotte, di riappropriazione di spazi urbani, ecco. Cerchiamo di, in tutti questi anni abbiamo cercato di limare questa dicotomia, questa frattura tra città e campagna, non solo dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista culturale. Ecco, è molto differente fare politica in un contesto rurale rispetto a quello metropolitano. Quindi siamo qui per innanzitutto supportare le lotte che porta avanti Mondeggi e Genuino Clandestino, ma anche perché abbiamo bisogno di costruire tantissimi altri percorsi sui territori. Io personalmente vengo dalla Calabria, vivo giù in Calabria, però riesco, diciamo, a mantenere una presenza all'interno dei mercati, nelle varie piazze e spazi sociali romani. Vivo una storia da tantissimi anni di vessazioni, di intimidazioni, di tutta una serie di soprusi che sono legati ancora a quel concetto che in un certo senso è molto simile alla storia di Mondeggi, anche se ha una forma di espressione differente, ma che comunque ci accomuna, che è quella del capitalismo, che è quello dell'accaparramento delle terre da parte di che poi siano andranghetisti o che siano capitalisti, o che siano, cioè, è molto più sottile la differenza. Chiaramente a gennaio abbiamo fatto una grande cosa insieme al connettivo Terra Terra, insieme alle reti locali, insieme a Zolle Nomadi, che è un altro nodo territoriale presente all'interno di Terra Terra. Io nella mia terra, che ho ricevuto dalla riforma agraria, non tanto io ma mio nonno, in quanto contadino senza terra, da circa 10 anni appunto subiamo tutta una serie di cose e io non riuscivo più ad accedere alla mia terra perché ero costantemente minacciato. Okay. Il rischio era quello di abbandonare tutto, di andare via. Quindi ho lanciato questo comunicato a diverse reti, sia locali che nazionali, dove chiedevo necessariamente un aiuto di tipo concreto a queste reti, che, e quindi sono tutti scesi giù in Calabria. Ci siamo riappropriati della terra a poca distanza da questi criminali che abitano a pochi metri. Abbiamo raccolto il prodotto, lo abbiamo trasportato nei vari spazi e abbiamo condiviso momenti di entusiasmo. Certo, immagino. È chiaro, non è la soluzione definitiva al problema, ma è un passaggio importante, perché da allora io ho riniziato a coltivare la terra, e chi si è dovuto nascondere ha capito che non ero solo, ma era parte di un percorso più ampio, di una rete più grande. E adesso come sta andando adesso? Adesso chiaramente noi abbiamo diversi processi contro questi personaggi. Io sia dal punto di vista politico non credo in questa soluzione. Sei in buona compagnia. Non credo che questi atteggiamenti possano essere sconfitti attraverso un approccio legalitario. Credo che la modalità di riappropriarsi in modo collettivo di un territorio sia dal punto di vista molto simbolico, nel far capire che il mio problema non è soltanto il mio, ma è parte di un percorso più in generale che sta avvenendo oggi in tutte le sue forme, esatto, tra cui anche Mondeggi. Sì. Questo. Assolutamente. Bene, il tema, guarda, quello che hai tirato fuori è un tema che sta tornando a ogni persona che si siede a questo microfono, ritira fuori il mutuo aiuto, evidentemente è veramente un tema molto molto importante, quindi sulla quale io immagino che lavorerete, ecco. È chiaro, non è il punto di fine, ma un punto di partenza, è la costruzione di un percorso. Tra l'altro l'evento in sé ha fatto emergere persone a livello locale che io non conoscevo, altri compagni che stavano sul territorio, che magari vivevano la mia stessa situazione, ma che non c'erano nessuno. Certo. Quindi chiaramente credo che possa essere, diciamo, una metodologia da esportare anche in altre situazioni, chiaramente adattandoli ai contesti territoriali. Certo. Bene, molto bene. Non abbiamo sentito il tuo compagno, però. Ciao a tutti e a tutte. Ciao. Io sono Ciao. Angelo, faccio parte Terra Terra, come rete più allargata. Vieni dalla Calabria? No, io vengo dalla provincia di Roma. Da provincia di Roma. E come realtà locale abbiamo formato questo collettivo che lavora nel territorio, che ci chiamiamo Zolle Nomadi. Zolle Nomadi. Che è una rete territoriale, per cui dopo tutti facciamo parte della rete Terra Terra. Terra-terra. Sono due reti che si intersecano. Benissimo, abbiamo proprio sentito pochi minuti fa un attivista di Terra Terra, Pippo, probabilmente lo conoscerai, che è attivo, se non mi ricordo male, ha detto verso Orvieto. Quindi abbiamo già sentito, sì. Quello che fa Terra Terra. Bene, allora vedo che siete stati marchiati con il marchio Wombat sulle magliette, e con questo potrete andare a diffondere il verbo in giro per l'Italia, in giro per le campagne, e speriamo insomma che tante persone possano sentire la vostra voce, perché ho visto che fra i punti centrali, oltre a quello del mutuo aiuto ed altri, c'è anche la comunicazione e la trasmissione delle parole che i vari movimenti producono, che fino adesso mi sembra di aver capito che vengono diffuse con un po' di difficoltà. Molto bene, allora un saluto ad Angelo e Massimo. Grazie di averci ospitato. Io difenderò diciamo le frequenze all'interno delle campagne calabresi, la cultura del Wombat. Beh, non arriviamo con le frequenze, non arriviamo neanche a Mondeggi, quindi intanto abbiamo la web radio, anzi, se poi ci lasciate dei contatti, se ci volete lasciare, se volete anche dire dove e come possono trovarvi gli ascoltatori, se hanno bisogno di vogliono sapere, vogliono informazioni, vogliono venire a trovarvi, avete un sito, immagino? Sì, noi abbiamo il sito sia come Terra Terra che come Zolle Nomadi. Va un po' a singhiozzo, però sto periodo dai è abbastanza dai seguito, però diceli questi indirizzi, ci troverete. Sì, ma dicelo l'indirizzo, però l'indirizzo basta Terra Terra, Terra Terra, c'è okay. I primi risultati sono quelli giusti. Benissimo, bene ragazzi, ciao, grazie mille. Tra l'altro, se più avanti vi venissero in mente contenuti o cose del genere che volete condividere a Firenze, mandate pure, noi si cerca di rimandare tutto, di dare spazio a tutti. Grazie, volentieri, volentieri, teneteci presente anche telefonicamente, assolutamente. Bene, allora noi mandiamo un pezzo, un altro pezzo di... per stemperà? Sì, sì, dai, dai, forza, dai, via Wombat. andiamo con un'altra canzone. È il momento di prepararci un attimino. Dai, tanto la conoscete, la mando. Arriviamo tra poco. Wombat Wombat. Il cielo si finge di rosa sopra Mondeggi e si aggiunge all'azzurro che ha, insomma, che ha imperversato per tutta la giornata. Qualche nuvola, speriamo non piova, ma forse sì. Dai, non porta male però. Non portiamo male. Abbiamo degli ospiti speciali qua accanto a noi. Una ospite speciale, Elide. Elide, sì. L'ho azzeccato, ragazzi, fantastico. Vabbè, perché gliel'hai chiesto, è perché facile. Sì, no, ma me l'aveva già ripetuto 4-5 volte, era già stato sbagliato. Elida. Però, sentite un po' come parla, presentati. Io sono Elide, se non sei ancora capito, sono sarda. Ecco, infatti, aspettavo questa S di sardo. No, basta solo una parola. Che zona, dove? Sono di Alghero, della zona di Alghero. bellissima zona di Alghero, fra l'altro. Ho avuto modo di starci, ma parli anche catalano? Sì, ma non perché l'ho imparato ad Alghero, insomma, perché okay. La mia famiglia non era originaria di Alghero, però poi ho vissuto in Catalunya e l'ho imparato là. Ah, ok. Secondo me devi stare anche un po' più vicino al microfono, sì, però, sennò i nostri ascoltatori non ci sentono. Allora, immagino la prima volta che viene a Mondeggi? No, in realtà è la seconda. Davvero? Sono venuta forse l'anno scorso, c'era un incontro specifico sull'orticoltura. Ah, e niente, eravamo qua in Toscana per altre cose, quindi sono venuta, visto che appunto mi diletto anche con l'agricoltura, quindi mi interessa parecchio. Benissimo. Fai parte di una rete in sarda? Sì, la rete sarda in realtà al momento è un po' ferma, comunque sì, ne faccio parte, anche se appunto è più di un anno forse che non ci incontriamo, non facciamo assemblee, nonostante questo però da quando abbiamo ospitato l'incontro di Genuino Clandestino in Sardegna, che era forse due anni fa o tre, ci aspettavamo che ci sarebbe stata più, non risposta, ma più stimolo tra di noi a fare le cose, no? Confrontandoci con gli altri e con le esperienze e le pratiche degli altri. Invece ci siamo un po' arenati e non abbiamo organizzato grandi cose, se non che tra tutte le varie possibilità, no, che ci sono nelle idee di Genuino Clandestino, che può essere fare i mercati o la garanzia partecipata o costruire comunità o il discorso dei semi, quello dei semi è quello che in realtà ci ha smosso di più, perché è quello su cui abbiamo concretizzato delle cose. Ecco, voi avete creato una casa dei semi. Sì, diciamo che è appena nata, insomma, è da tipo un anno e mezzo che ci incontriamo. Concretamente ne parlavamo già da prima, poi proprio in occasione del Genuino Clandestino in Sardegna, confrontandoci con le altre regioni, ci siamo resi conto che avevamo un sacco di semi antichi che gli altri non hanno. E quindi è stato un po' uno stimolo a continuare a parlarne, e poi nell'ultima assemblea di Genuino Clandestino che abbiamo fatto ci eravamo divisi in tavoli di lavoro, e uno era quello per fare la casa dei semi, e abbiamo deciso, insomma, di attivarci concretamente per trovare il posto. Abbiamo scelto, abbiamo trovato e scelto un posto che è centrale, nel senso che è al centro viario della Sardegna, perché il problema della distanza è grave, e quindi il fatto che ci sia un posto centrale che più o meno è equamente raggiungibile da tutti è la cosa che cercavamo. E in più, grazie alla collaborazione delle persone che ci hanno messo a disposizione il posto, che sono degli abitanti di questo paesino. Che si chiama? Si chiama Domus Novas Canales. E in provincia? È in provincia di Oristano, vicino a Ghilarza, che è il paese di Gramsci. Tra l'altro c'è da fare una doverosa precisazione. Prego. Perché Domus Novas Canales, spesso quando diciamo andiamo a Domus Novas, tutti pensano a Domus Novas, che è dove c'è la fabbrica di bombe. Invece noi andiamo a Domus Novas Canales. Quindi Domus Novas, invece, la fabbrica di bombe sta a sud, sì, della, vicino a Iglesias. A Iglesias, diciamo. Esatto. E quindi niente, quindi c'è giusto, anche questa... è giusto fare la presentazione. Voi non fate bombe, attenzione. No. Semi. Bulbi, cose, bombe, diciamo, di argilla, ben più brutte delle bombe, ma molto meno violente. E niente, con questa cosa stiamo andando avanti. Adesso sarà circa 6 mesi che abbiamo iniziato a fare delle iniziative aperte al pubblico, dopo che abbiamo passato dei mesi appunto a discutere su tutte le varie sfumature del discorso e a trovare un sistema di catalogazione che non ci causi problemi in futuro, insomma, perché bisogna studiarsele bene le cose. E da circa 6 mesi abbiamo iniziato a fare sia delle iniziative aperte al pubblico, in cui riceviamo i semi e li diamo anche, con tutto un sistema un po' adesso elaborato da spiegare. E le persone ovviamente non è che sono obbligate, ma dovrebbero riuscire a riprodurre la pianta e a riportare il seme e anche delle annotazioni su quello che hanno osservato loro su quella pianta. E noi, quando gli diamo i semi, gli diamo anche tutta una serie di indicazioni, sia su quella specifica varietà che abbiamo ottenuto le informazioni da chi ci ha dato i semi, che ha già coltivato per anni quella pianta, e anche tutta una serie di informazioni su come riprodurre correttamente le piante. Per fare tutto questo lavoro informativo, noi stessi stiamo facendo un percorso di autoformazione, che è anche aperto a chi ci vuole venire, insomma. Però sono cose abbastanza tecniche che devi un attimo appassionarti. Certo. Però, insomma, siamo abbastanza contenti di come... Bene, i semi, dicevi, non ci sono molte realtà che hanno una banca dei semi. No, ma poi in realtà... Che brutto nome, voglio però. Specificare, esatto, che non è una banca dei semi. Noi casa, non vogliamo accumulare semi, li vogliamo far girare. Esatto. E quindi non vogliamo tenere grandi quantità di seme dentro la casa dei semi, ma avere piuttosto un nutrito serie di contatti. Gruppo di persone. E quindi se viene una persona e mi dice io sono di Siniscola e vorrei dei semi di pomodoro, io ho una serie di contatti di persone che hanno già diversi tipi di semi di pomodoro della casa dei semi o loro, che coltivano a Siniscola e che quindi sono adattati già parzialmente a quel territorio perché sono coltivati da anni là, e quelle persone possono andare direttamente da chi sta già coltivando quel pomodoro e avere più informazioni di quelle che può ricevere da me, che magari non l'ho mai coltivato. E in più mettersi anche in contatto le persone sui territori tramite appunto questo scambio di semi e di conoscenze. Quindi ora mi dicevi che la rete di Genuino Clandestino non è così attiva in Sardegna. No, non è molto attiva. Però voi siete qua. Sì, no, ma poi adesso piccoli gruppi fanno le loro cose nei loro territori, però a livello come rete regionale sarda, appunto, che siamo molto lontani, e quindi magari le 4-5 realtà che sono più attive sono veramente a 200 km una dall'altra. Sì, che poi non è che i trasporti siano, i trasporti interni non è che siano famosi per... Sì, no, a parte se non hai la macchina, non puoi incontrarti con nessuno. Comunque sono tutti, anche queste sono cose che... insomma, presenti, che sono state discusse all'assemblea che è appena terminata, tra l'altro. Quindi, sì, sì, no, in realtà adesso io non, la connessione. Non sono intervenuta perché non ho niente da dire a nome della rete, perché non ne abbiamo parlato, ma in realtà le esigenze che sono uscite sono molto simili a quelle che hanno fatto presente anche gli altri, no? Sarebbe utile che ci fossero delle materiali informativi in generale per un po' per tutti sui vari argomenti. Sì, e non solo, magari appunto spesso anche gli altri che sono venuti prima di te a parlare, quasi tutti hanno puntato un po' la cosa sul il bisogno appunto di far rete, anche lì si ritorna lì, cioè di riuscire di essere in grado di mettersi nelle condizioni di poter contare su diversi nuclei sparsi per tutta Italia per si aiutare anche per beghe legali, di avere per una, non dico un sostegno proprio nella tua concreta quotidianità quando ti succede, ma avere almeno un vademecum di come comportarti generale, no? Sì. Per farti un attimo un'idea di come fare se ti trovano là col tuo formaggio. Bene, vuoi dare qualche contatto, qualche indirizzo per contattarvi o per vedere? Sì, se vogliono cercare la Casa dei Semi, abbiamo un blog, se cercano Casa dei Semi su Google lo trovano. Bene. Benissimo. Bene, ti ringraziamo. Grazie, grazie a voi. Sei stata marchiata anche tu con un adesivo Wombat. Lo sta porterò un po' staccando. In giro. No, ma me ne prendo durante. Bravissima. Sull'isola. Bene, allora rimane un attimo seduta qua accanto a noi mentre noi mandiamo un pezzo. Che il nostro ci manda un pezzo, io non sono pronto. Aspetta, sì, ce l'ho. Intanto vi dico che l'assemblea è finita in quel di Mondeggi e c'è un gran fermento perché sta arrivando la pappa. Fra un po' tutti contenti per la pappa, bravi. Di noi che facciamo? Si rimane in radio? O si ma non lo so, sì, in realtà sì, abbiamo un altro da Milano. Facciamo un salto a Milano e poi chiudiamo la prima tranche e si guarda e un po'. E poi ripartiamo successivamente. Vai, canzoncina, Wombat Wombat. Stavamo scherzando, non abbiamo Milano. Quindi noi andiamo con canzoncina e poi si guarda. Just say E invece c'è, Milano c'è. Milano c'è, Milano c'è, sì, stiamo fino dalla scena nel quale non vede l'ora di tuffarsi, ma lo abbiamo prelevato perché è un compagno attivo nella rete milanese, e anche se ha fatto parte in precedenza, ci raccontava giusto qualche secondo fa, della realtà romana di Terra Terra, laziale si può dire, di Terra Terra e poi anche umbra, è uno tra i fondatori, è uno dei fondatori della rete di Genuino Clandestino. Però ecco, noi vorremmo andare a parlare principalmente della realtà milanese della quale fai parte. Buonasera a tutte, a tutti. Allora, faccio parte della rete